sarà. Dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Per sempre figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel 21h. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alma, siamo ai colori dell'anima, siamo ancora qui, sono le 21.02. Questa serata è una serata particolare, a giovedì festeggeremo i 150 anni d'Italia. Abbiamo qui in studio con noi Giuseppe Nastri, salve Giuseppe. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori, c'è Carmen ancora in regia, ciao Carmen. Ciao, buonasera a tutti. E Monica, io condurrò questa particolare serata in cui parleremo dei 150 anni d'Italia in parole, musica e arte. Saranno diciamo tre puntate nel corso di questi mesi. In questa prima puntata parleremo dei primi 50 anni, dal 1861 più o meno al 1910, ma in ogni caso ci focalizzeremo su quello che è il risorgimento italiano, quindi il fuoco diciamo dei giovani che hanno costruito quella che è l'Italia, la nostra Italia. Il colore di quest'oggi non sarà soltanto uno, quindi, ma sarà il tricolore italiano, verde, bianco e rosso. Insomma, inizieremo un po' raccontando cosa succede storicamente, per poi parlare cosa succede veramente in letteratura, nell'arte e nella musica italiana del periodo. Ma dopo questa breve introduzione possiamo iniziare a lanciare la canzone che è La bandiera dei tre colori. Non so, penso magari qualcuno di voi la conosca. Si lancia? Non si lancia. Allora sicuramente continuando a parlare dell'Italia unita, il risorgimento, allora, l'Italia si forma diciamo ufficialmente nel 1861 1848 ci sono i primi moti rivoluzionari, in particolare l'Italia manifesta contro gli austriaci, e poi ci saranno le tre guerre di indipendenza per l'allargamento del territorio. La prima guerra di indipendenza nel 48, in cui Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria. Nel 59-60 la seconda guerra di indipendenza, in cui Napoleone guida l'esercito franco-piemontese e sconfigge gli austriaci a Magenta, Solferino e a San Martino. E poi sempre nel 1860 la strage, diciamo, del ponte Landolfo, in cui la Francia dopo ottiene dall'Austria la Lombardia, a parte Mantova. Quindi l'Italia conquista il Ducato di Parma e Piacenza e di Modena e Reggio. Nel 60, a seguito di plebisciti, si ha così l'annessione al Regno di Sardegna, del Ducato di Parma e di Piacenza, e nonché delle legazioni pontificie della Romagna, del Ducato di Modena, di Reggio e della Toscana, dove un governo provvisorio si era insediato, ponendo fine al Granducato di Toscana. È nel 61 che viene convocato un nuovo Parlamento a Torino, e dove resta in vigore tra l'altro lo Statuto Albertino. Quindi, diciamo, nel 60, successivamente, nel 60-70 sarà la fase di piemontizzazione della piemontizzazione, che diciamo porterà anche notevoli danni in qualche modo, comunque saranno delle delusioni. In ogni caso, è nel 1860 che Garibaldi guida la spedizione dei Mille contro lo Stato Pontificio, che sarà fermata poi dall'esercito italiano, e quindi poi nel 61 sarà la proclamazione d'Italia. Dunque, Giuseppe, in questo periodo di fervore sociale, letterati e poeti si sono lasciati coinvolgere, toccare. Chi sono stati, c'è qualcuno in particolare che ha sentito questo senso d'Italia? Sì, Monica, ci sono state due correnti nella letteratura e quindi nel pensiero, e anche nell'azione politico, nell'impostazione dell'azione da prendere per questo processo di unità d'Italia. Si possono chiamare così: da un lato ci sono i radicali, sì, che vanno da Ugo Foscolo, diciamo, a Mazzini, e più in là ancora altri, Cattaneo, e poi ci sono i moderati. Qui ci sono molti, molti nomi da citare. Silvio Pellico, famosissimo. Poi c'è Massimo D'Azeglio, certo. Il Manzoni, e poi possiamo citare un po' più tardi, Gioberti, e mettiamo Cesare Balbo. Chi ha avuto ragione dei due? Chi ha contribuito di più all'unità d'Italia? Beh, posso arrivare alla fine a bozzare una risposta, ma si può dire che queste due correnti si sono intrecciate. La corrente dei radicali sul piano letterario, sul piano della letteratura, è impostata da Ugo Foscolo con le ultime lettere di Jacopo Ortis, che sono ispirate a un fatto reale. Un giovane che si chiamava Jacopo Ortis è suicidato per ragioni che non si sanno, ma era un compagno di studi di Ugo Foscolo, e Ugo Foscolo ha voluto interpretare questo suicidio e dal lato romantico come un amore deluso, ma anche come un senso di patriottismo continuamente deluso da quello che è successo, perché, come si sa, in Italia, quando stava per arrivare Napoleone, c'erano quelli che noi potremmo chiamare giacobini d'Italia. Questi potevano aspettarsi che Napoleone venisse a portare la libertà. Quando poi Napoleone è venuto e si è visto che veniva per razziare, diciamo la parola, in francese si dice piller, ha imposto gravissimi tributi in milioni di lire dell'epoca, che erano importantissimi, ai vari stati della penisola, e più di tutti al Papa col trattato di Tolentino, E poi ha fatto cadere la Repubblica Veneta, la Serenissima dominante, come dirà Ippolito Nievo, e l'anno dopo, dunque, Napoleone non entra in Venezia, ma Venezia capitola di fronte a Napoleone e istituisce una Repubblica Veneta. Nel 1797, l'anno dopo, con l'iniquo trattato di Campo Formio, Napoleone cede Venezia all'Austria per avere la Lombardia, per regolare i conti per quel momento lì. Naturalmente delusione enorme del Foscolo, il quale scrive questo scritto, le ultime lettere di Jacopo Ortis, ispirate nel titolo ai dolori del giovane Werther di Goethe. Sì. Questo libro strega Mazzini. Mazzini è stregato dalla lettura di questo libro. En voûté, come si direbbe in francese. E altri con lui. Ha un successo enorme, pubblicato nel 1802 a Milano. Per quello io ho un po' fatto un piccolo fremito quando Monica hai detto dice, sì, questo è la prima metà dell'Ottocento. Parliamo della prima metà dell'Ottocento per il momento. Sì, anche perché c'è tutti quei moti che poi hanno portato, importantissimi, ovviamente non è che si inizia dal 1861, no, anzi, bisogna sapere, l'interessante è sapere cosa è successo prima. Sì, sì. Quella che viene dopo è l'Italietta, come si dice, o nel libro di Montanelli, l'Italia dei notabili. Quindi questa corrente radicale poi dà luogo alla carboneria, quindi a delle persone che fanno degli attentati, coltelli, pugnali, giuramenti, segreti, e poi repressione poliziesca abbondantissima. Ci sono tanti film su queste cose. Mia figlia, che ha visto questo film, ha detto: ma papà, sai, qui in Belgio non si studia risorgimento. Sì. Dice: ma papà, allora il popolo proprio non partecipava assolutamente, no. E non, era un movimento di una piccola elite, di una piccola frangia, tanto quelli che sapevano leggere, e tra quelli che sapevano leggere una minoranza che poteva riscaldarsi a queste idee. Invece un po' più tardi vengono i moderati, ho citato Silvio Pellico fu in prigione nello Spielberg, che è una fortezza che si trova sopra Brno in Moravia. Ci furono 44 patrioti italiani, ma un centinaio di patrioti polacchi, e poi cechi, forse anche ungheresi, adesso non mi ricordo con esattezza. Silvio Pellico, quando uscì dopo 10 anni di prigione, uscì nel 1831, nel 1832 pubblicò Le mie prigioni, su consiglio di un prete, di un sacerdote, che disse, lui non voleva, ma disse, no, scrivi, racconta. Ed è un libro di dolore, di rassegnazione, di fiducia in Dio, quindi è l'opposto un po' di quello che era il modo di vedere dei radicali, che erano in genere non cattolici, perché dovevano combattere tra l'altro anche contro lo Stato Pontificio per l'unità d'Italia. Sì. E Metternich, che era a Vienna, Metternich disse che questo libro danneggiò l'Austria più di una battaglia perduta ed ebbe centinaia di edizioni, e fu tradotto in decine di lingue, almeno una decina, ma lingue che uno non si immagina, non sopporta. Adesso dico dei nomi così, ma naturalmente francese, inglese, tedesco, ma forse anche portoghese, finlandese, non lo so in quante lingue fu tradotto. Adesso magari i nostri ascoltatori si stancano. Effettivamente, quindi... infatti voglio dire, la bandiera dei tre colori comunque non è nata proprio nel 1861, ma anche prima. Quindi vediamo se questa bandiera dei tre colori riesce a... Si può suonare? Vai, esatto. Provo. La libertà, la libertà, la libertà. Ed ecco qua ancora sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Ricordiamo agli ascoltatori il numero di telefono, è lo 02 345 26 56, oppure la mail, se vogliono comunicare con noi, coloridellanima@gmail.com. E siamo ritornati in studio ancora con Giuseppe Nastri, Carmen in regia. Farei la domanda a Carmen, che essendo spagnola però si è così informata, ha scoperto un po' qualcosa di più sulla musica italiana. Quindi nella musica, Carmen, ritroviamo quei sentimenti che la società sta vivendo? C'è qualche musicista, compositore in particolare che ha fatto sentire o che ha vissuto un po' il risorgimento, questo periodo? Assolutamente sì, c'è un autore che parla del risorgimento e che veramente fa sentire all'italiano la forza, no, di questa unione. Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi, assolutamente, perché con te ho scoperto di più a questo fantastico compositore, perché lo più famoso no, è sempre Aida, ma veramente con Nabucco, per esempio, c'è questa aria, no, che è la de Va Pensiero, che veramente mostra come è il sentimento dall'Italia dell'epoca, no? Questa dell'unificazione. Sì. E Verdi è anche un signore che ha fatto tantissime cose per il risorgimento, perché invece perché per esempio ha fatto la consigliere, come si dice? Il consigliere provinciale, dai, scusa, ma sono in spagnola e trabucco tutta. Vai, ha fatto il consigliere provinciale di Piacenza e ha stato eletto come deputato nel collegio di Borgo Sandonnino. E veramente adesso per l'italiano e per molti italiani è un simbolo, no? De che veramente ha guidato il popolo per l'unificazione. Sì, ci sono state sicuramente anche delle ha composto delle opere, ha aiutato a sentire questo, ha sentito lui stesso, perché ha partecipato proprio all'unità d'Italia. Dopo è stato un po' deluso, forse dopo l'Italia unita, e anche nelle sue opere si sente questo cambiamento. Però sicuramente diciamo il Va Pensiero è stato un po' quello che col tempo è stato visto, è stato preso come inno un po', per sì, come un po' l'inno, sentimento, il sentimento di unità. Comunque non, appunto Verdi, dopo sentiremo diciamo queste note del Va Pensiero, continuando appunto con Giuseppe Nastri, diceva prima, appunto ci ha parlato delle ultime lettere di Iacobo Ortis, di Silvio Pellico, Le mie prigioni. C'è ancora qualche altro scrittore letterario che appunto ha fatto sentire questo sentimento d'Italia, oppure ancora ha partecipato magari a qualche battaglia? Così ci vuole magari leggere qualcosa che è stato scritto? Sì, dunque le due più grandi figure letterarie dell'Ottocento italiano sono il Leopardi nella poesia e il Manzoni nella prosa, diciamo, con i certo. Promessi sposi. Il Leopardi direi che ha un significato quasi nullo per quanto riguarda il risorgimento. È vero che ha scritto un poema all'Italia quando era giovane, ma è veramente una compilazione retorica e poi non se ne è più preoccupato realmente. Chi invece, quindi perché? Perché lui era troppo preoccupato dei suoi problemi, della sua intimità, che poteva essere, diciamo, intanto era gobbo e malato, poverino. Poi aveva delle pulsioni sentimentali, eccetera, ma che non sapeva esprimere. Una volta si trovava a Firenze, si gettò in ginocchio vicino a una contessa, e questa che col campanello chiamò il cameriere e disse: signor Conte, Giacomo Leopardi si è sentito male, potete accompagnare? Quindi, mancanza di espressione, non riusciva a esprimere come voleva. Non riusciva a esprimersi, sì, sì. E, dunque, invece il Manzoni, dunque, è interessante il rapporto tra il Manzoni e Massimo D'Azeglio, tutti e due dell'aristocrazia. Sì. Manzoni milanese, il D'Azeglio è stato anche primo ministro piemontese. E tra l'altro il Manzoni era il suocero del D'Azeglio, perché D'Azeglio sposò la figlia Giulia, la quale poverina morì presto, morì nel 1835, doveva avere una trentina d'anni, una cosa così. E lui era talmente attaccato al suocero che sposò la cognata, credo, successivamente. E lo chiamava papà, però, continuava a chiamarlo papà. Bene. Allora, è bello vedere, capire un attimo come la pensavano questi due. D'Azeglio era assolutamente per la libertà d'Italia. Fu primo ministro, ma controvoglia, perché lui era più poeta, scrittore e soprattutto pittore. Sì. Non so se era poeta, ma intanto era scrittore. Scrisse anche dei romanzi. Ma non voleva, lo faceva come dilettante. Poi disse al re Vittorio Emanuele II, pigliate Cavour come primo ministro, è meglio di me. E questa fu la cosa più importante che fece dal punto di vista politico. Perché Cavour poi Cavour. Ha fatto la sua storia. Vabbè, adesso vedremo se avremo tempo di parlare di Cavour. Ma per continuare con la letteratura, il D'Azeglio era per la libertà, il Manzoni era per la libertà e per l'unità. Infatti uno dei suoi versi nell'inno che sciolse, diciamo come si dice letteralmente, a Murat per il proclama di Rimini, aprile 1815, dice: liberi non saremo se non siamo uni, cioè se non siamo uniti. Certo. Cioè lui subordina, il Manzoni subordina diciamo così, la libertà all'unità, o le vede in rapporto. E poi nell'inno che si chiama proprio marzo 1821, quando si pensava che l'esercito piemontese sarebbe venuto a liberare Milano, quindi moti anteriori al 48 che lei ha menzionato, che tu hai menzionato. Sì, sì, se sì. Posso permettere. Certo. Dice: han giurato, non fia che quest'onda, quindi l'onda del Ticino, non fia che quest'onda scorra più tra due rive straniere, non fia loco, ove sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia mai più. Perché il Ticino era il confine tra gli stati piemontesi, cioè il regno sardo, come si diceva, e la Lombardia, che era sotto l'Austria. E poi non voglio affliggere. Io in Italia sono originaria più o meno di quelle zone, quindi il Ticino più o meno lo conosco. Poi dice naturalmente prischi allori, prischi dolori, e poi dice una gente, cioè il popolo italiano, che libera tutta o fia serva tra l'Alpe ed il mare, una questa gente, una d'arme, di lingua, d'altare, di memoria, di sangue e di cor. Quindi l'unità d'Italia era per il Manzoni. Quindi c'era questa dialettica, diciamo certo molto cortese, molto affettuosa, tra il Manzoni e il suo genero. E poi c'è Gioberti e Balbo, sono due autori che per noi sono assolutamente privi di buon senso, assolutamente fuori. Per esempio, noi sappiamo che magari possiamo sicuramente magari parliamo di Balbo dopo, di Balbo e soprattutto di Gioberti, ma brevemente, ma dopo. Esatto. E possiamo magari adesso far sentire questo Va pensiero di cui ci hai parlato prima. Sentiamo Va pensiero, no? Che questo è inno contro l'occupante austriaco. Certo. Thank you. Bellissimo, bentornati ancora su Radio Alma, I colori dell'anima. Siamo in studio sempre con Giuseppe Nastri e stiamo parlando del risorgimento dell'Italia, quindi per festeggiare proprio i 150 anni dell'Italia che saranno ricordati il 17 di marzo, quindi giovedì. Ci saranno sicuramente tantissimi eventi in Italia e anche a Bruxelles. Non so se tu sai qualche evento che è stato sicuramente al consolato italiano, si faranno degli eventi, ci saranno degli eventi e festeggiamenti. Ma continuando un po', diciamo, abbiamo trattato un po' di letteratura, abbiamo visto un po' di storia, di musica e sicuramente non abbiamo ancora trattato di arte. E diciamo che questo periodo è legato storicamente a quello che è l'epoca del romanticismo. Romanticismo che si configura come un complesso movimento politico, filosofico, artistico e culturale che insomma capillarmente diffusosi in Europa tra la fine del Settecento e i primi decenni del XIX secolo. In realtà, dunque, l'ideologia romantica è il prodotto di una società in grave crisi economica e sociale, travagliata sia dai problemi derivati dal crescente fenomeno dell'industrializzazione, sia da quelli della restaurazione politica. Quindi la borghesia imprenditoriale più evoluta, preoccupata dal ristabilirsi del predominio artistico, e gli intellettuali progressisti che intuivano l'impossibilità storica di un così radicale ritorno al passato, divennero i principali punti di riferimento di un'opposizione liberale e repubblicana che mirava ad abbattere le monarchie assolute sostituendole con monarchie costituzionali oppure, secondo quanto sperava Giuseppe Mazzini, addirittura con repubbliche federali. Ma insomma, ciò che è importante per quanto riguarda il romanticismo è il concetto di popolo che questo romanticismo esalta, è quello dell'idea della nazione, e una nazione, cioè come un insieme di individui legati fra di loro da vincoli indissolubili di lingua, religione, cultura e tradizione. E se ogni nazione impara a rivendicare la propria originalità storica, anche ciascuno può legittimamente vantare la propria storia personale, che in quanto soggettiva è sempre unica, preziosa e irripetibile. Ed è proprio, diciamo, è proprio a questo che si lega il pensiero romantico. In Italia, appunto, sul piano politico si assiste ad una forte compattazione nazionalistica fin proprio dalla prima metà dell'Ottocento, come abbiamo illustrato prima, come abbiamo visto appunto dal punto di vista letterario, quanto in realtà sia davvero desiderata questa unità. E quindi si gettano ovunque delle basi per la formazione dei grandi stati nazionali, all'interno dei quali sia possibile riconoscersi non per semplice opportunità politica, ma per radicata tradizione di lingua, religione e cultura. Sulla base di tale spinta ideologica ci sono appunto in Italia le tre guerre di indipendenza, e in realtà la cosa curiosa è che l'Italia, pur non essendo mai sussistita dal punto di vista amministrativo, era comunque già data per scontata fin dai tempi di Dante, possiamo dire. Quindi si è formata, ha detto anche Benigni nell'intervento che ha fatto a Sanremo, diceva appunto prima ovviamente si è formata la cultura in Italia e poi la nazione, una cosa unica. Tra gli artisti del periodo troviamo Francesco Hayez. Giuseppe Mazzini scriveva di Francesco Hayez in un saggio apparso in una rivista inglese nel 40. Hayez è il capo della scuola di pittura storica che il pensiero nazionale reclamava in Italia, quindi c'è proprio questo bisogno, e in Francesco Hayez è stato trovato questo rappresentante, diciamo. In particolare lui si rivolse alla rappresentazione del vero, dove per vero si intende la realtà, la società, i sentimenti propri e quelli degli altri uomini. I dipinti dell'artista associano al vero il bello, cioè una certa idealità. Quindi la realtà non è mai interpretata in maniera cruda. L'opera d'arte infatti è rivolta non più soltanto a un'elite, ma come nel passato, ma al popolo intero ed ha una funzione educativa. Per esempio possiamo prendere di Hayez delle opere che sono a Brera tra le più famose, tra l'altro appunto prima ha parlato di Massimo D'Azeglio e proprio Francesco Hayez ha fatto un ritratto davvero, direi, di una, ritraendo proprio, come dire, la psicologia anche del personaggio, un ritratto che è appunto la Pinacoteca di Brera, ma non soltanto appunto si occupa, diciamo, ha trattato di ritratti, ma tra le sue opere più famose c'è per esempio Il Bacio, che è datato 1859, oppure troviamo Pensiero Malinconico, che rappresenta questa donna, diciamo, con un abito, con questo abito, che, diciamo, abito non tanto scollato, ma è svestita e l'abito gli cade dalla spalla sinistra, appoggiata vicino ad un muretto in un interno, e dove ci sono questi dei fiori che sembrano quasi appassiti, ed è questa donna che ha questo sguardo malinconico, ed è uno stato d'animo che dava anche spazio alla poesia contemporanea, no? Quasi un po' nostalgico. Pure Il Bacio di questo soldato che bacia la sua ragazza prima di partire, infatti da dietro il muro si vede appunto un'ombra, quasi per dire chissà cosa succederà dopo. Questa ragazza, il ragazzo parte per la sua missione, per la sua battaglia, e la ragazza, quindi appunto questo sentimento romantico, questa ragazza è a casa e lo aspetta. Quindi ecco Francesco Hayez come rappresentante un po' di questo del pensiero, anche lui del pensiero, di questo pensiero nazionalistico, di questa di questo sentimento, di questo proprio desiderio di un'Italia unita. Continuando con la letteratura, parlavamo prima di Balbo. Cosa voleva dirci? Balbo e Gioberti. Forse più Gioberti che Balbo, hanno influenzato la classe media e hanno cominciato, sono i primi che, insomma, a parte certo lo Jacopo Ortis eccetera, ma che e le poesie del Manzoni, che non so fino a che punto riusciva a pubblicarle, questo non lo so, hanno interessato la classe media, quelli che sapevano leggere, al problema dell'unità d'Italia, che era veramente prima una questione di un'elite molto ristretta. Sì. Le proposte avanzate da questi due autori sono ridicole: il federalismo sotto il comando del Papa, probabilmente non ci credeva neanche lui, ma doveva sfidare tutte le censure dei vari stati italiani. Non poteva dire adesso dobbiamo abolire tutti gli stati e fare una nazione unica. E intanto però lanciava il problema. Poi Balbo addirittura immaginava che le diplomazie europee si mettessero d'accordo per dare dei territori dell'impero turco all'Austria in modo tale che quella si disinteressasse all'Italia, eccetera. Tutte cose impossibili, ma intanto si poneva il problema senza rischi, senza quei rischi che faceva correre Mazzini, che ha inviato alla morte parecchia gente. Il quale poi Mazzini vedeva con chiarezza certe cose che stavano per succedere, per esempio capì che quando Napoleone III sarebbe intervenuto nel 1859 nella seconda guerra di indipendenza che hai menzionato, sì, prima, io non so per quale motivo disse a quello si fermerà la Lombardia e non recupererà il Veneto. Lo sapeva, chi gliel'aveva detto? Faceva parte di quei rivoluzionari che intuiscono cosa succederà, ma non sanno quello che devono fare, mentre invece Lenin, il vero rivoluzionario perfetto, sapeva anche quello che doveva fare per vincere, per ottenere il potere. E questa impossibilità, c'era l'impossibilità proprio, direi, materiale di vincere l'Austria sul terreno militare, e c'era l'impossibilità, per gli stati italiani era impossibile vincere l'impero d'Austria-Ungheria. Per il Piemonte era veramente sproporzionata la cosa. Ed era anche impossibile avere una rivoluzione. Questo, non so, qualcuno più sveglio potrebbe spiegarlo. l'Italia non ha fatto rivoluzioni, non è fatta per fare rivoluzioni, non so per quale motivo. Non ci sono state rivoluzioni, distruzioni di chiese, come in Spagna, per esempio, o una rivoluzione come quella francese, esportata, o la rivoluzione russa, re decapitati, non è concepibile. Quindi la soluzione doveva venire dai moderati. Allora, sono solo i moderati che hanno fatto l'Italia? E lì dobbiamo ricordare Garibaldi, che era in un primo tempo, direi, non dico un discepolo, ma un associato, era dalla parte del Mazzini. E Cavour ebbe il genio, non solo nel suo parlamento sardo a Torino, di recuperare, di fare quasi centro-sinistra, no? Di recuperare, lo chiamarono connubio, quindi quello che fece la svolta a sinistra, per preparare, per mantenere la Costituzione e per rendere più popolare in un certo senso la causa italiana, per avere un sostegno popolare. Ma seppe utilizzare Garibaldi per la spedizione nel Regno delle Due Sicilie, come lei sa, sì, come tu sai, cominciò, certo, dalla Sicilia, certo, e poi venne il Salento. E c'erano stati altri tentativi prima, disperati, a Crotone, a Sapri, Gioacchino Murat all'inizio nel 1815, a Pizzo Calabro, tutti finiti fucilati. Invece Garibaldi, con l'aiuto dei piemontesi, poté. Ora, Garibaldi non si può dire che fosse un moderato. Ed ecco, questo è un po' il pasticcio all'italiana, per cui l'italiano, in Italia non si può dire che ci sia una vera destra e una vera sinistra, eppure c'è la divisione tra la destra e la sinistra. Spiegami tu come è possibile, che popolo siamo, come siamo? Arrabattati, un po' così, vediamo. Sì, un arrangiamento, sì, proprio all'italiana. All'italiana, come, sì, si dice. Perché se uno dice, per esempio, alla milanese, la bistecca buonissima, alla livornese, un piatto delizioso, spaghetti alla napoletana, magnifico. Poi quando si dice all'italiana sembra una cosa, esatto, mal combinata. Tanti gusti insieme. Ma allora io arriverei un attimo su Garibaldi per lanciare questa canzone, che è la canzone di Massimo Bubola, cantata in questo frangente da Fiorella Mannoia, e si chiama appunto Camicie Rosse. Thank you. che ci mostri la strada e ci insegni le rotte. Proteggi questa flotta di studenti e di sognatori. Aggiungi al firmamento i nostri mille cuori. Ed eccoci ancora in studio su Radio Alma, I colori dell'anima. Ricordiamo il numero di telefono 02345 2656, se ci volete scrivere, i colori dell'anima @gmail.com. Siamo ancora in studio, abbiamo parlato del risorgimento proprio in occasione dei 150 anni d'Italia. Stavi parlando, Giuseppe Nasti stava parlando, quindi come prosegue questa storia che ci stava raccontando? Sì, questo fatto curioso che noi onoriamo al tempo stesso Mazzini, che era un esule che non poteva tornare in Piemonte, certamente, e Cavour. La mediazione, dicevo, è fatta da Garibaldi, il quale era di origine un radicale, un estremista mazziniano nell'animo, lo è stato, repubblicano, eccetera, però è partito con i suoi 1000 volontari alla conquista della Sicilia e poi del Regno di Napoli, con le armi e con l'appoggio del governo sardo, e a Teano, alla fine della sua spedizione, consegna il regno che ha conquistato al re Vittorio Emanuele II. Quindi no, rinunzia al principio di una rivoluzione popolare, questa rivoluzione, questo atto mancato alla rivoluzione popolare. Poi questa è la conclusione, quindi si conclude la spedizione del Regno di Napoli, si conclude con la caduta di Gaeta nel 1861, a cui segue poi la proclamazione del Regno d'Italia, che noi celebreremo giovedì. Esatto, ma proseguendo un po' sulla sua linea, diciamo, a livello artistico comunque è stato un periodo anche qua molto pieno, prima dell'Unità d'Italia, addirittura un pittore famosissimo, Giovanni Fattori, che faceva parte dei Macchiaioli, scrive nella sua autobiografia, tanto per dire quanto davvero fosse sentita questo sentimento, scrive: furono tempi belli quelli del 1846-47 e 48-49. Un solo pensiero, un solo desiderio, tutti ci univa. A 20 anni tutto si amava, e soprattutto la patria, l'Italia. Ed eravamo appunto 20 anni prima della formazione, quindi. Poi venne la rivoluzione, 48-49. Entusiasmi, grida di viva l'Italia, abbracci perché eravamo tutti fratelli. La guerra mi distolse dagli studi. Fu questa l'unica occasione che mi occupai di politica. Il Partito d'Azione si serviva di me come fattorino di corrispondenza e mi faceva viaggiare per i vari paesi della Toscana, caricandomi di stampati incendiari. Sì, giovane, allegro, senza pensieri, bohemien, senza saperlo, non dava nessuna importanza a questo genere di cospirazione ed eseguiva le commissioni affidatemi con sincerità e buon umore. Terminata questa campagna, tornai agli studi. Mi entrò la febbre dell'arte, ma poco ne capiva ancora. La gioventù entusiasta mi spinse a cercare un nuovo indirizzo artistico e, girando per la campagna, mi sentii attirato a nuovi studi e nuove ricerche. La mia carriera artistica fu di tribolazioni e di miserie. Feci la vita vera del bohemien senza posare e senza saperlo, per necessità. Stavo in una soffitta in Via Nazionale. Mio padre, il quale con sacrificio mi mandava poche lire al mese, mi mandò un letto alla militare, 2 seggiole e una scrivania. Vivevo solo, con economia, ma sempre allegro e spensierato. Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, perché sono proprio, direi, insomma, i giovani hanno fatto anche un po' questa, hanno preso, come dire, armi in mano, anche, basti pensare che che appunto lo scrittore dell'Inno d'Italia aveva 20 anni, quindi e poi anche tutti gli altri, c'era proprio questo spirito, questo desiderio di unità d'Italia. Tra l'altro, appunto, Giovanni Fattori era senza dubbio, dice, il maggiore pittore italiano dell'Ottocento, e viene descritto come un uomo semplice e schivo, in cui appunto partecipa ai moti rivoluzionari del 48 quasi per gioco e con lo stesso candore fanciullesco con il quale aveva invano tentato di avvicinarsi al chiuso ambiente fiorentino. Infatti gli esordi pittorici di Fattori sono nel solco della tradizione romano-celebrativa che è cara agli accademici, ma però dei primi anni 50 frequenta il caffè Michelangelo, il famoso caffè Michelangelo, dove entra in contatto con una classe di giovani artisti, i quali erano divenuti nemici dei professori dell'accademia. Infatti appunto gridavano guerra all'arte classica, e tra questi per esempio ci sono pittori come Signorini, Sernesi, Borrani, Costa, e poi il critico e letterato Diego Martelli, che era un po' considerato l'ideologo del gruppo. E infatti insomma, tra l'altro Fattori lo definisce come un uomo di vero cuore, dice questo legame che si era formato tra i macchiaioli, che tra l'altro era una corrente davvero curiosa, nel senso che ha origine a Firenze, ma i pittori, gli artisti che giravano intorno provenivano da tutta Italia. Quindi era proprio già questo il senso, già dalla formazione stessa del gruppo stava il senso di questa unità. E tra l'altro, vabbè, per quanto riguarda, diciamo, a livello tecnico, loro i macchiaioli, hanno, non sono loro che sono dati questo nome, ma era come sempre, come accadeva, diciamo, a causa con gli impressionisti, era un giornalista che scriveva, che scrivendo su di loro in modo dispregiativo sul loro modo di dipingere alla macchia, l'ha chiamata appunto macchiaioli, e quindi poi loro hanno preso questo nome, l'hanno rivolto al positivo e detto: bene, noi siamo i pittori della macchia, ci chiamiamo i macchiaioli. E diciamo che appunto l'adesione di Fattori alla macchia è quasi spontanea e fisiologica, no? Dice. Lui non era un po' ribelle, diciamo, negli anni dell'Accademia era un po' insofferente per quanto nei riguardi della pittura storico celebrativa, e finalmente con questo modo della macchia riesce a trovare una sua strada, un suo nome. E in particolare, non tanto, sì, anche nella modalità, ma più che altro lui indagava la realtà secondo il puro verismo, quindi obbedendo allo stimolo di fare proprio lo studio degli animali, del paesaggio, un tentativo di mettere sulla tela anche tutte le sofferenze fisiche e morali di quello che disgraziatamente accade. E quindi il verismo lo porta anche ad uno studio accurato della società presente di quell'epoca, e gli mostra anche le piaghe da cui è afflitta. Quindi il verismo così manderà alla posteriorità anche i costumi e le abitudini del tempo. E per l'artista di Livorno, perché appunto di Livorno, lo strumento e la macchia, lo strumento e il mezzo dal quale è possibile conseguire quei risultati di verismo pittorico che secondo lui sono alla base di ogni tipo di manifestazione artistica. E in particolare lui rappresenta per esempio la vita militare e il lavoro dell'uomo nella prima parte, poi in realtà sì, lavoro dell'uomo inteso anche in senso più ampio, quindi dopo lo tratterà anche della vita nei campi eccetera, però appunto quello che ha reso Fattori famoso è il suo dipinto Campo Italiano alla Battaglia di Magenta, proprio del 1861, nel quale appunto si vede il campo, diciamo, con ancora, diciamo, la battaglia non è ancora in corso, si vedono persone morte, ci sono cavalieri sul cavallo, c'è un po' di confusione, diciamo così, in primo piano, una donna che scende dal carro, e poi dietro questa desolazione, ecco, in secondo piano si vede questa desolazione. Oppure ancora un'altra opera famosa è intitolato Vedetta, oppure Il Muro Bianco, dove ci sono questi tre cavalieri in vedetta su un cavallo bianco, e c'è questo muro che si staglia bianco, e dietro questo orizzonte piatto, dove in realtà le figure del soldato e del cavallo in primo piano appunto si stagliano con forza sullo sfondo bianco e giallastro del muro, e in realtà c'è questa atmosfera che sembra quasi una giornata afosa di fine estate, e fa percepire proprio anche come dire, la fatica oppure il ruolo di questo soldato, che, di questa vedetta appunto, che cura, che controlla, così, che fa l'andirivieni, diciamo, e sotto il sole caldo del, insomma, del centro Italia. Insomma, diciamo che a livello, per quanto abbiamo potuto vedere, a livello artistico, a livello musicale, a livello letterario, abbiamo visto un'Italia frizzante, abbiamo visto un'Italia che è alla ricerca di qualcosa, alla ricerca di un'unità, no? Cosa ne dici, Giuseppe? Il periodo artistico, letterario, che rappresenta il vertice in Italia, non è il periodo del Risorgimento, è semmai il Rinascimento. E per la letteratura addirittura l'ultimo medioevo, cioè Dante, Petrarca, Boccaccio, sì, eccetera. E ancora poi nel Rinascimento ci sono degli scrittori come Machiavelli, che ha una grande importanza anche al di fuori d'Italia, è conosciuto. Sì. Nella scienza noi abbiamo avuto Galileo, questa è un po' la fine. Nell'Enciclopedia Britannica l'Italia quasi scompare dall'Enciclopedia Britannica dopo Galileo, bisogna dire le cose come stanno. Quindi il Risorgimento è un periodo tanto letterariamente quanto artisticamente non dei massimi del nostro paese, diciamolo. Dobbiamo non per forza, ma per amore, per convinzione, dobbiamo celebrarlo, perché è un periodo di riscatto dal dominio straniero e poi libertà e unità che abbiamo visto. La prima guerra d'indipendenza, che è quella del 48-49, sì, comincia effettivamente con un fervore che è ben descritto proprio da Fattori. Proprio perché ci sono stati eserciti del Regno di Napoli, dello Stato Pontificio, che sono venuti a combattere contro gli austriaci. Poi questa unità si è un po' disfatta anche perché l'Austria ha intimato al Papa che era pronta allo scisma se il Papa non ritirava le sue truppe. Allora c'è stato un po' di sconcerto. Quindi questo miscuglio della religione con la politica era molto difficile in quel periodo. Poi c'è anche l'esercito piemontese o sardo, come si diceva, è stato sconfitto. Soprattutto la Fatal Novara, no? Uh-huh. A cui seguono i tristi errori meta ultima Oporto, cioè Carlo Alberto che abdica e va in Portogallo, arriva quasi miseramente. Quando i Savoia pretendevano, non so fino a che punto era vero, pretendevano di essere squattrinati, perché a un certo punto Vittorio Emanuele II a Cavour, che rischiava un po' di esagerare, diciamo, con la democratizzazione del Parlamento, e cioè, dice, voi signor Conte avete 150.000 lire di rendita all'anno, ma io ho una famiglia, 5 figli, non posso perdere il mio posto, diceva il re al suo primo ministro. Insomma, con questa simpatia, sì, sì, così tipicamente spontanea. E infatti non so se quando a un certo punto D'Azeglio vide che non ce la faceva, lui preoccupato più di cose artistiche, disse al re: prendete Cavour e non me come primo ministro. Certo. Questo fu il grande consiglio, la grande. Certo. E allora diciamo, direi che su queste parole potremmo concludere con quello che è l'inno d'Italia. E diamo appuntamento agli spettatori, agli ascoltatori per la prossima settimana, sempre su Radio Alma dalle 9 alle 10 lunedì, Colori dell'Anima, e buonanotte a tutti. Buonanotte.